Molti giuristi, oltre a quelli palestinesi, ma anche di diversi paesi, hanno seguito il processo di Marwan Barghouti e tutti sono concordi sul fatto che questo tribunale non ha nessuna legittimità per processarlo. E poi viene accusato di cinque omicidi contro cittadini israeliani, malgrado il fatto che Barghouti era un leader politico dell'intifada palestinesi, ma anche del movimento palestinese in generale, membro del consiglio legislativo, un dirigente di primo piano di Al-Fatah, ogni forma di lotta contro l'occupazione israeliana viene definita come terrorismo e diventa questo risultato un risultato naturale. Ogni popolo sotto occupazione, il diritto internazionale riconosce a questo popolo il diritto di opporsi e di resistere alla occupazione. E sinceramente sulla questione degli omicidi di cui viene accusato Marwan Barghouti, sono accuse fabbricate per struncare il ruolo positivo che Barghouti ha svolto negli ultimi anni a favore anche del processo di pace. Si sa che lui faceva parte di questo gruppo di giovani dirigenti del popolo palestinese che si erano battuti con grande coraggio e con grande determinazione, sì per la fine dell'occupazione israeliana da una parte, ma anche per l'avvio del processo di pace. Questa sentenza è una sentenza contro l'ipotesi di una soluzione politica del conflitto israelo-palestinese.